Allora direi di iniziare la nostra conversazione per quanto riguarda i percorsi che avremo e ne siamo ben contenti di presentare ancora per quest'anno 2025 la rassegna Bertoldo ed eventi collaterali legati a tutto ciò. Ricordo che siamo a San Giovanni in Persiceto, tante le realtà che saranno presenti come ad esempio l'aspetto artistico grafico in relazione anche con una sorta di presenza artistica già di per sé della città di San Giovanni in Persiceto. A tal proposito con noi David Bachter, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Grazie a te per questo approfondimento. Allora, da cosa iniziamo? Perché qua io leggo dal 1 marzo alla chiesa sconsacrata di San Francesco un tuo lavoro che, come ho detto, va anche in intersezione con opere peraltro che erano presenti o che sono presenti all'interno di questa suggestiva e particolare sede espositiva. Ci puoi dire qualcosa di più, David? Certo. Allora, la mostra è nata per volere di Giorgio Franzaroli, ci siamo conosciuti qualche tempo fa ad un altro festival, che era il Festival Bellissimo di Montereggio in Toscana, e conoscendo il mio lavoro mi ha praticamente coinvolto in questa mostra, dove io da un po' di tempo sto lavorando su dipinti ad olio che raffigurano supereroi. Tutto è nato dal libro che ho fatto nel 2022 con i Your Face Comics, Tutta colpa dei supereroi. Da lì è nata questa idea, come interpretare i supereroi. Volevo fare qualche disegnino, da lì sono nate una serie di dipinti che sto portando avanti tuttora. Dunque la mostra è incentrata praticamente su questi lavori. Casualmente poi la chiesa dove si farà la mostra, che San Francesco, ospitava il quadro del Guarcino di San Francesco che riceve le stigmati, che era posizionato sull'altare. E da lì è nata la sfida, una serie di coincidenze poi mi ha portato a fare una reinterpretazione di quel lavoro, perché ora questo il lavoro originale, che era stato rubato nell'epoca napoleonica, poi finito poi in Francia o in Svizzera, adesso non mi ricordo, poi è tornato in Italia ulteriormente rubato, ora si trova a Novara. Dunque sono andato a vederlo, visto che abito vicino a pochi chilometri a Novara, sono andato a vederlo, e dunque insieme a Giorgio e a tutti gli altri che stanno organizzando la mostra abbiamo detto: ma perché non riportare questo dipinto nella sua collocazione originale? Naturalmente non volevo fare una copia del dipinto, dunque ho fatto un lavoro che è in sintonia con la mostra, dunque riprendendo il quadro, ma trasformandolo come se fosse un'enorme copertina di un fumetto inesistente con San Francesco che riceve le stigmate. Dunque una cosa penso unica in Italia, ma anche in tutto il mondo, che una copertina di un fumetto finisca come palla d'altare. E soprattutto molto bella questa idea, che a me non dà certo l'idea di qualcosa di così blasfemo, anzi è una modalità per esaltare la spiritualità con un linguaggio contemporaneo, e certo è presente, va da sé, l'ironia, ma non è quella sgarbatezza, se vogliamo, che porta a dubbio gusto, anzi tutt'altro, ne risaltiamo la figura, anzi ne hai risaltato la figura con queste presenze molto particolari, così lontane ma così vicine poi, secondo me. Guarda, nel dipinto originale, che è San Francesco che riceve le stigmati, è soltanto accennato. Infatti solo guardandolo da vicino c'è una leggera percezione nelle mani che sono stigmate. Naturalmente io ho esaltato questo, in base anche ad altri lavori che avevo fatto, esaltato questo fuoriuscita di sangue dalle mani e dai piedi in maniera un po' esagerata. Certo. E poi invece che un fraleone addormentato che sta nello sfondo, praticamente c'è il mio autoritratto che leggo un fumetto. Insomma, lo trovo bellissimo, non la perdo di sicuro, anche perché quel weekend sarò a San Giovanni in Persiceto. Bene. Aggiungo un'altra cosa, ci siamo incentrati su questo aspetto importante, ma ci saranno altri lavori? Sì, certo, ci saranno molti lavori, sia di piccole, medie, grandi dimensioni ad olio, di quei lavori che ti stavo dicendo, dunque reinterpretazione dei supereroi in chiave 1800, dunque rivisti in una maniera un po', partendo da fotografie dei daguerrotipi originali, cercavo delle somiglianze tra i personaggi raffigurati con come me li immaginavo i supereroi. Da lì poi è nata tutta una serie di dipinti legati a quello, e poi non solo, anche anche a una rivisitazione di dipinti fiamminghi di Dürer, Cranach, Holbein con supereroine fiamminghe. Lì sarà una piccola parte e poi naturalmente non mancheranno le tavole originali dei fumetti pubblicati sia da New York Face Comics, BD Edizioni, Eris Edizioni. Dunque si potranno vedere oltre ai dipinti anche le tavole originali. Tutta colpa dei supereroi, o anche merito in questo caso. Beh, certo il merito di David Bachter è ovvio, sì. Però il talento visto in questo modo ne è valore aggiunto. Io vedo qui nell'immagine di copertina un Batman vestito fin de siècle. Ecco, per dire, per sì, dare un'idea sì, di sì, questi. Sì. Ma chi sono, senza svelare troppo se possiamo, no? Qui vedo Batman, altri supereroi, curiosità, scusa. Beh, ho lavorato molto su, ci saranno una serie di dipinti di piccole dimensioni che ha una rivisitazione di supereroi quasi tutti Marvel e poi invece quattro grandi tondi con personaggi DC da Batman, Catwoman, Batgirl. Poi ci sono alcuni Joker, Robin, insomma, cioè la maggior parte sono comunque supereroi Marvel. Mancano altri supereroi che non ci sono più, però più che altro sono questi. Certo. Quindi le due grandi, no? La Marvel e la DC Comics, sì, dal sì, primo sì, marzo alla chiesa sconsacrata di San Francesco a San Giovanni in Persiceto, gli orari alle 10.30 alle 12.30 sabato e domenica, pomeriggio dalle 16 alle 19. Inaugurazione con l'artista sarà venerdì 28 febbraio alle ore 17.30. Io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità. Ma io ringrazio voi, siete stati gentilissimi. Se volete venire e avere più informazioni, poi insomma sarò lì anche sabato e domenica durante il weekend, insomma. Così avremo modo di conoscerci. Per adesso grazie e buona giornata. Grazie. Ciao, a voi, David. E ci vediamo a San Giovanni in Persiceto. Buona giornata a tutti.